di poco piano, non mi ricordo tutto, no, no, è tutto lì, come te, io sono disaffacciato, mi ha detto, cioè, questo costa molto di più, però guarda, la compagnia è troppo, perché si è detto, va bene, dammi, lo userò solo qualcosa, e l'ho ritrovato l'altro giorno, e ce l'ho qua, non pensavo nemmeno di averlo, e quindi bisogna che invece mi fornisca di un altro po' di stagno, perché è un rotto per filo cieco, per piccole, per circuiti più SMD, un altro ancora più capillare che sarà pochi decimi, e poi quello classico da un millimetro, che quello mi è, l'ho finito ieri proprio. Quindi lo stagno un po' di più fine è meglio fa, non deve essere grosso. Dipende da cosa, se devi saldare un PL, quello da uno è l'ideale, però una volta se devi saldare un PL, prendete un po' e lo divido in tre parti e l'arrotto è lungo. Se invece devi saldare in un circuitino, lì devi usare il taglio molto fino, capito? Fino, dipende da quello che stai andando, perché invece una goccetta di stagno è una goccetta, con quello che metti invece un goccione, non ci riesci a far saldare sull'SMD con quello lì, togliti la testa, fai solo casino, oppure va bene se c'hai un processore che c'ha adesso 50 piedini, a quel punto quando l'hai saldata l'aria calda, tu lo metti sopra, prima pulisci bene, gli metti il flussante, gli metti gli punti, due puntini col saldatore, quattro punti, poi quando c'è il flussante gli passi tu il saldatore sopra, appunto il saldatore, e se glielo sani, vedi che lui se ne va solamente sul piedino quando c'è il flussante, devi stare attento lì, se poi con la mente di ingrandimento guardi e poi magari con la calza, con la fatta per bere e magari pulisci tutto quanto e togli lo stagno in eccesso, è un po' particolare come lavoro, però già si possono saldare i processori, è già il saldo. Non devo saldare niente, non ti preoccupare, però non è fine, comunque lo uso solo per i PL, per fare qualche saldatura così, siccome l'ho usato anche per saldare quella batteria tampone. Ho visto che è andato tutto bene, poi come te avevo detto, siccome ho visto che rimaneva un pochino più alta del solito, però se non sapevo leggere e scrivere, qua metto il capo, mi manda in corto tutto, allora l'ho messo un battofolino di cotone proprio sopra il portabatterie e ho visto che è andato tutto di lusso. Va bene che va bene. E allora quindi è così, no, oh, yeah. Sto cazzeggiando qua, non è fatto bene quello che mi serve. un casotto ragazzi. È un casotto, io sto aspettando l'aria, oggi ho detto chiudo alle 9, infatti adesso passa a prendere qualche cosetta, vediamo un po' se arriva tardi, sono già alle 8, meno qualcosa. Fra un po' andiamo a vederci un TG e poi alle 9:30 si cenerà. E tu già cenato, Fabri? No, ancora non ho cenato, ho mangiato qualcosa. Addirittura stavo guardando e ho anche uno stagno da 0,3 mm, 3 decimi di millimetro. Questo è proprio se fare roba in fino. Fabri, avevo fatto risolto poi per quel cavo? Ricordami, quale cavo? Avevo fatto passare un cavo a casa di Walter. Me l'ammetto, ma dove i punti? Che mi ha chiamato un sabato, solo dovevo andare a fare cosa. Sì, a perdere tempo, se ti chiamo non c'era questo gran bisogno, perché avevo finito di piazzare la cosa, come si chiama, avevo finito di piazzare l'antenna, come la Pro 56, ma comunque qua ci mancava, sì, non la trovava più, sono delle specie che poi serve per dare l'impedenza, quindi le ho ricostruite, non so se le avevi viste, le avevo messe anche la fresa, le avevo fresate tutto quanto e le abbiamo piazzate, fortunatamente sono andati perfettamente, sono riuscito, poi ho fatto 2 anellini al tornio in ottobre per fare la taratura dell'antenna, perché le ha persi e ti ho comprato tutte le stazioni. gettonare una una, scusa, mi sembra in 12 metri che è un po', ma deve essere qualche bobina andata, quindi gli ho detto ma cambiamo la bobina, no, la futura è andata, vabbè così, e comunque quella lì l'abbiamo finita, è montata, pronta per usare, la 5-7000 mi sembra l'ho montato sopra, l'abbiamo montata, e io ho montato le due quelle, devo fare poche di cose, ma... No, perché poi ho detto che siccome sono impegnato qua qualche sabato per fare la raccolta delle olive, no? Quindi per lasciare mio padre, diciamo, da solo a farlo, quindi bene, mano, appena finiamo, se organizziamo qualche sabato scendiamo, così facciamo quello che c'è da fare. E vogliamo, non è un problema. Se puoi iniziare avanti il prototipo, io ho mille cose da fare, tu consigli anche ieri, ho abbassato anche io il traliccio perché il pavo di Spurni è una cosa impressionante quella che mi stanno combinando, comunque abbasso perché avevo un radiale della 510 rotto, quello avevo riparato, e poi avevo un trombone che era leggermente, l'ho visto che era tirato, stavo che era tirato e è rientrato qualcosa, è successo, comunque niente di particolare, però mi avevo anche allo sguardo, allora ho abbassato il carrello per metterlo a posto, infatti in mezz'oretta ho rimesso a posto il trombone, quindi era solamente su, ho messo a posto il guardariale, ce n'era un altro rotto, quindi l'ho riparato lo stesso e l'ho montato, poi portandolo su non mi sono reso conto, si è impigliato la trave e mi ha spaccato la canna. Come facciamo? Stavo pensando, tanto qualcos'altro, sono sceso giù in garage e fortunatamente avevo delle canne di proprio di fibra di vetro, quelle che vanno avanzate, che ogni tanto ho visto, mi recupero anche la valla quando si rompe, che riparo qualche antenna, come hai detto quell'altra mi ha detto tu, e mi rimangono i pezzi, avevo delle canne di un'antenna molto grossa, quella rossa, tra i quelli che gli avevo riparato, che lui aveva appena comprato l'antenna, e per lui avevo fatto una, e lì mi era avanzato un pezzo di quella canna, ed era 2 millimetri più spesso all'interno, quindi ho tagliato il pezzo, l'ho messo al tornio, l'ho tornito, gli ho tolto 2 mm e poi gli ho fatto un'altra volta tutto il combo, pezzo al tornio in fibra di vetro, sono andato su, li ho originati, l'ho montato e l'ho rimesso a posto, e poi ho cambiato anche un driver che non mi andava bene sulla scheda e l'ho riportata su, meno male che ho un po' di attrezzature, se no sarebbe stata su aspettando che arrivasse la canna nuova, e invece così velocemente in giro di un'oretta e mezzo due se c'è l'ingaggio l'ho riparata, l'ho riportata su, adesso in cui guarda che è anche più robusta l'acqua, comunque non è un problema. A te ti mi hai detto bene, non è che hai un po' di attrezzatura, se no uno così non sarebbe messo a farla. Lo so, c'è sempre da fare. Vabbè, comunque io ti ripeto, mi sono proposto, nel senso che datemi qualche altro giorno, poi se già o per uno per l'altro sono disponibile. E poi tanto dobbiamo, io invece, certo, adesso questa estate una cosa l'altra l'avevo lasciata andare. Un giorno, uno sabato che sei in giro, ci può coglierci che non sei da vado, ci beviamo che ci stiamo bevendo un caffè da Coti, e come già l'hai visto, volevo iniziare, volevo, non lo so, volevo cambiare, avevo comprato il pavimento del bagno, poi non l'ho mai cambiato. Stavo pensando di farlo saltare piano piano, il mio problema sai che cos'è? Che c'è la vasca da bagno che si tombano i pannelli e posso arrivare sia sotto e lasciarlo così senza smontare la vasca, anche se tu metti i pannelli ovviamente non si vede, però maledizione, sapere che sotto non c'è il pavimento, un po' mi si girano le scatole. Non volevo fare vedere un paio di consigli, volevo iniziare a farmi, a cambiarlo, dai. L'ho pagato, ma l'ho comprato da un sacco di tempo, c'era un garage, ma bisogna piazzarlo. Sì, riprendo io poi lancio la taglia. Allora, molta gente fa così, come stai dicendo tu, prepara la vasca idro sul massetto senza pavimenti, dopodiché ci pavimenta sino sotto e poi gli mette il tappo. Poi ti ripeto, è una cosa che praticamente sei tu e basta, quindi c'è la fatica a te un conto, però molta gente fa anche così. Va bene, riprendi cra. E si riprende proprio diciamo quello, non vi preoccupate, vero? Mi piace anche ascoltare, vai Fabio. Gli ultimi minuti e stavo dando un'occhiata anche in rete la storia di questo stagno. Allora, volevo far saltare il vecchio, tipo sotto c'è lo stesso pavimento, ti ricordi quello che abbiamo fatto saltare in cucina sotto? Solo la differenza è che lì era incollato veramente bene, mentre in bagno nel bussa sempre, che me l'aveva montato sopra, non ha messo aggrappante, ho usato un collante sbagliato, però non ha mai, quindi quello farlo saltare un attimo. L'avevo preso anche il filo, lì bisogna farlo saltare piano piano, poi andare piano piano, se da fare danno, farlo uscire da sotto le piastrelle, e pure filarlo e cercare un attimino, tagliare, prendere le misure, capito? La verità già stavo pensando, detto, ma quasi quasi, tanto ho visto una volta con la squadra, partirà fuori, ho detto ma quasi quasi lo faccio a pezzi, taglio un pezzo, magari smantelli il pavimento e poi man mano piano piano ti prepari un pezzo, una volta iniziato tac, due o tre mattoni, perché ho preso quei mattoni grandi come quelli della cucina, capito? Sono mastodontici. Il problema più brutto è non tanto farlo saltare, ma stare attenti, come hai detto tu, perché c'è un pavimento che è sotto il placcaggio, quindi cercando di toglierlo senza scheggiare il placcaggio, capito? Che insomma è un rischio quello, te la butto così, nel senso che come ti può andare bene, come invece qualche scheggiolina si può presentare, però vabbè, una volta struccato già non si vede, no? Ti rompo sempre le palle perché non si vede. Sì, infatti, ma non credo, ma il collato bene, ho fatto una cagata, arrivato che l'aveva fatta su te, passavo per me, però adesso vediamo, non vediamo, ora adesso qui già ne discutiamo con qua. Va bene, ascolta qua, e poi tu quel microfono, l'avevi messo quello MC50, l'avevi sempre fischiando. L'ho messa da parte, già ne ho un microfono, c'è la Donis, sto usando il 430 numero 2, tanto per fartelo sapere, lo uso spesso, è la verità, però siccome il 60 è sull'altra, per non fare cambia che ti cambia, mi è capitato una Donis, ho preso questa Donis, la V508, e basta. C'è il clip, no? Dall'uscita microfonica e connettore 8, è alimentato dalla radio e va bene così, l'ho messo da parte. E ho rotto le sballe, Fabio, non riesco a capire, non va nulla dentro, proprio non c'è niente vuoto, c'è il connettore che va allo sfilerato, quattro fili attaccati, PTT, boh, non va nulla, è vuoto, non capisco, sicuramente è un problema di capsula, un problema di... controllato bene con la lente le saldature, ma non tocca da nessuna parte, nulla, boh, non lo so perché rompa, non messo da parte, Fabio, sto usando questo qua, se lo bide il culo. Io ho capito, io portavo la lente da controllo perché sta fischiare, sarà qualche cosa, io avevo che attirare la voce, tanto sarà solo magari da qualche cablaggio, qualche casino lì, ma io ho un'occhiata. Perché è vuoto, no aspetta, mi sono assoltato, vuoto, non c'è niente dentro, non c'è, quattro fili che vanno tra l'altro così, però come ti avevo detto l'altra volta, secondo me ho cambiato il connettore dalla base del microfono alla radio, perché io mi ricordo che non era 4, perché quello di su è originale, mi pare che sia 5 o 6, e anche quello di sotto era così, entrava 5 o 6 mi sembra, e usciva col connettore 8, quindi sicuramente hanno fatto casino lì, forse hanno sbagliato qualche filo da saldare, perché funziona, però rompa, fa un rumore di alternata, capito? Quindi come abbiamo detto poc'anzi, non sono all'altezza di capire che cos'è, l'ho richiuso, l'ho rimesso dentro l'armadio. Lo passo a Roberto, poi quando c'è 5 minuti lo prende, te lo controlli, vedi un po' se riesci a eliminare questo cacchio di rumore. Sì, pace, se domani mattina pace, tanto domani dovrei essere in giro, io faccio così, passo, lo prendo e te lo controllo, attaccato. Attaccato sì, fa via, nuovo, perché non usato, mai lo attacco, non so, così, giusto per usarlo, già ne ho, ripeto, microfono, però stavo usando, adesso ho collegato la Lunis, però c'era l'MBP5, quello che avevi preparato tu, su 430, capito? Va benissimo. E questa radio la devi mettere a... cioè, i picchi di modulazione allucinanti, cioè sto andando con... ne ho provati tutto col wattmetro, perché non avendo la scala dei watt, il 430 rispetto al 140 e al 440, che, insomma, un orientamento ce l'hai. E ce l'avevo a Santiago 5, ce l'avevo 80 watt di portante, ho detto minchia, cioè tirata un po' questa radio. E allora mi sono, col wattmetro me l'ho regolata proprio a 20 watt, e c'erano i picchi che arrivano praticamente a 9,30, capito? Però va bene, c'è veramente, lo vedo, è perfetto. È che, come hai detto tu, cioè Roberto, quando si sposta con Gianfranco nel canale 16, sento più a loro che a voi. È vero che il filtro lo messo nell'altro, è vero, l'altro filtro ancora, ce lo trovo. Lo trovo, guardo, cacchio, piano piano cercare, magari lo trovi alle volte, e che sono impazziti come sprizzi, cacchio, sono scendi di gabbo, cacchio, che si diceva, però un filtro particolare, però vorrei vedere se c'è qualcosa da adattare, non lo so, dovrei leggere per un attimino, perché in effetti hai ragione, il filtro, nella massa dell'altra, e vabbè. È così, non si può fare niente per il momento. Va bene, dai, ascolta, io rimango, non so se ti passo continuo, voglio vedermi un tutorial di ancora di stagno, devo acquistarlo, non voglio sbagliare, perché se sbagli stagno sembra così, ma è importante, saldi male. Invece lo stagno devi, una volta che punti la punta del saldatore, soprattutto sulle cose SMD, che c'è la punta quella tipo uno spillo, che non metti la puntina, gli va un tocchino, qua si deve subito, sum, devi vedere lo stagno che fa, se non è buono fa la pallina, devi scaldare e rischi di fare danno. Allora cercalo, magari buono, no Fabio, non dobbiamo fare nessuna modifica, tu non mollare, magari ti capita che sei in qualche sito, come giri tu, c'è qualche 430 in demolizione, che c'hai filtri, lo prendiamo subito, non ne frega niente di quanto costa, quanto non costa, è a posto, quella radio è un peccato senza filtro M, perché è un funzionamento, aspetta, io sono sempre con quella in ascolto in banda laterale, ma c'è una ricezione favolosa, ti dirò che esteticamente, ma anche internamente, io le ho viste tutte e due aperte, molto più nuova quella senza filtro, capito? Già l'hai vista quella là, i connettori sono tutti senza spinette, saldati bene, perché saranno saldati bene, però prima o poi mi lascia a piedi quella radio, quindi addirittura c'era Giovanni, non so se lo conosci, Giovanni Radiomatore, Giovanni Pittore, Giovanni Silvio, voleva fare un cambio, voleva quel 430, mi dava un TS50, ho detto ma no, non tenevo manco, non ne ho perché me lo voglio tenere, me l'ho preso per tenere, ma la radio è nuova, in ottime condizioni, manca solo il filtro, è un peccato, vabbè c'era, cazzo Fabri c'era, abbiamo messo nell'altra, però alla fin fine conveniva tenere il filtro lì e praticamente tenere l'altra senza filtro, perché è molto più nuova questa qua, capito? Però se ti capita, non stare lì, non mi dire neanche niente, tu prendilo e basta, magari girando, tu che giri molto su internet, ti capita una botta di culo e prendilo senza avvisarmi neanche, così si piazza e anche quella è a posto, perché la sto usando quasi sempre questa, l'altra è quasi sempre spenta, nonostante abbia il filtro, sto usando quella senza filtro, intanto siamo sempre in un canale, capito? Se magari ci sposta qualcuno in qualche altro canale, allora attivo l'altra che non prende colpi, perché quella c'è uno spostamento di 6 kHz, quindi sono tanti, capito? Va bene. bene, va bene, Pino, attuale micro. Io infatti mi stavo aspettando questo perché vogliamo spostare la radio. Che c'è Nicolas che si è fatto la luce, devo asciugare i capelli, mi assento un attimino, adesso ci siete più tardi, ok? Qua siamo, mi fa bizzare il computer, io sono qua, non c'è problema. Va bene, dai, a dopo allora. Ciao. E io dopo, ciao. Buonasera. non lo so Mirko, io ce l'ho un 757X, però è andato in avaria e ce l'ho lì messo da una parte, non so manco come è fatto dentro, la verità non lo so, è andato in avaria praticamente cambiando delle batterie, anche lì va delle batterie, delle luci dello smitter, che è meglio che Fabrizio tecnicamente non lo veda mai con la radio, perché sennò non picchi a me perché io l'ho presa così, ma ci sarebbe da ammazzare chi l'ha rotta in quelle condizioni. Hanno bucato Fabrizio lo smitter, perché sai, 757 c'ha poca luce, no? Allora per far sì che ci sia molta luce hanno bucato e hanno messo dei LED. Hanno messo dei LED, questo l'ho presa fuori, quindi no, non è roba di Sassari, perché assolutamente l'ho presa fuori, poi ce n'è anche un'altra di quelle funzionanti. Hanno bucato, tanto bucando, hanno praticamente sicuramente fatto qualche corto e la radio non accende più. In più hanno rovinato lo smitter, perché lo smitter non funziona, quindi immaginate tu il casino che hanno fatto. Mirko, non lo so, se hai il manuale, hai controllato il manuale, però se ci sia qualche regolazione da fare sullo smitter, se la sai fare, magari c'è qualche resistenza variabile, qualche trimmerino da fare una regolazione, o qualche caratura da far sì che, non lo so, io lo sto guardando. RFG non ha, stai attento che non abbi l'attenuatore inserito, dove c'è scritto ATT, non lo so Mirko, tante cose, è una radio molto particolare quella, te l'avevo letto, però ripeto, se è funzionante io preferirei non toccarla, pazienza, però se riesci magari a leggerti il manual service, c'è qualche regolazione da fare, qualche temperatura da fare sullo smitter, se sei capace farla. Appunto, cioè già c'è la prefettura, sei capace, vedi un po' con la strumentazione, se è un problema di sordità della radio, se la radio è sorda magari c'è da fare qualche taratura, oppure se solo lo smitter che è tarato male, ci sono le tarature da fare, però ripeto, io non posso darti nessun input, perché è una radio che io ho avuto tantissimi anni fa, poi l'avevo lasciata, poi mi è capitata due occasioni, una l'ho presa per pezzi di ricambio, però è funzionante e l'avevo, ce l'ho e funziona, mentre l'altra praticamente accende la tensione, c'è, però non appare nella ricezione, nella trasmissione, e non si accende neanche il frequenzimetro, hanno fatto un casino della Madonna, invece quella che ho preso a Sassari è perfettamente funzionante, nuova, e lo smitter è perfetto, non ha, cioè, i segnali che ho con questa o con quella non cambia assolutamente niente, capito? Perciò secondo me è un problema di taratura di smitter solo, perché se la radio non è sorda e senti benissimo, non penso che sia un problema della radio, non hanno difetti quelle radio, guarda, sono dei muletti quegli esuli piccoli, sono veramente delle radio eccezionali, è completa, funziona molto molto bene, addirittura la mia da 100 watt anche in AM, in AM, in FM, in SSD, perché c'è da tagliare un diodo, me l'avevano fatto, e non l'avevo fatto io, l'ha fatto chi ce l'aveva prima, e da gli stessi watt che da un K in M, mentre è normale senza tagliare questo diodo in M da 25 watt, capito Mirko? No, te l'ho detto, sono ben molesti, anche la mia è nuova nuova, ma anche l'altra che ho esteticamente nuova, solo che è fuori uso, mentre quella che ho preso qua a Sassari, che tra l'altro me l'aveva fatta avere Roberto, era di un carissimo amico, è nuova nuova, è perfetta, è funzionante, ma l'altra hanno fatto un lavoraccio che non viene bene a dirlo, assolutamente una cosa pazzesca da vedere, veramente, pazzesca da vedere. E quindi hanno sicuramente lì fatto qualche corto o qualcosa, e la radio no, ma ce ne sono convinto che non ha niente. Però la tengo lì, non so mai serva qualche pezzo per l'altra, quindi va bene così. Però sono delle radio eccezionali, l'ho avuta tanti tanti anni fa, questa che ho preso funzionante a Sassari da un amico, l'FT757GX2, il CAT System, che è proprio l'ultima che avevano fatto, poi non hanno fatto più questa serie, però è molto bella, funzionante, esteticamente è molto più bella del 140, molto più completa e tutto. Funziona bene, l'abbinamento microfonico lì mi pare, non mi ricordo cosa c'è, anzi l'MC60, volevo mettere il 50, invece fa un rumoraggio e quindi l'avevo staccato. Però c'è un cavettino spiralato che era di un microfono sempre MC60, e in pratica non faccio altro che prendere l'MC60, cambiare il cavetto intero, attaccarlo al microfono e attaccarlo alla radio, perché quello è cablato via ISO, tutto qua. Tu che microfono ci stai abbinando? Sì, vabbè, ti ripeto, vedi un po', hai la capacità, l'attrezzatura ce l'hai, gli attacchi al realizzatore, vedi un po', insomma, vedi un po' se la radio è sorda come ricezione oppure se è solo una taratura di Smitter. Se è una taratura di Smitter penso che si possa fare, insomma, non è un problema quello, ci saranno dei passaggi da fare, delle cose da toccare, ma se riesci a farlo porti lo smettere alla realtà, insomma, ecco, sempre con lo strumento, non fare tarature da radio perché variano e poi ti crea problemi, sempre a livello di strumentazione, non sbagli. Sarebbe infatti se hai il generatore, l'unica cosa da poter fare quei lavori ci vuole il generatore di segnale, glielo metti su, le dai ciò che le devi dare e vedi, se il generatore ti dice che la radio è sorda, allora chiaramente devi agire diversamente, ma se la radio è a posto che è solo un problema di smettere, ci sono sicuramente dei punti dove si può regolare, insomma, ecco, tutto qua. Va bene Mirko, ti lascio, se ci sentiamo dopo, come anche Fabrizio e Tino, mi sposto nel salone per un'occhiata alla TV e poi vado a cenare. Un abbraccio a tutti, a presto, ok? Fabrizio, se all'ascolto me lo metto da parte quel microfono e te lo lascio da Robby, poi quando vuoi passi e le dai uno sguardo senza prendertelo come impegno principale, dai un'occhiata, vedi cosa, se una cosa fattibile, se no già rimane così. Oh cla, senza offesa, ma vedo che stai mutato adesso, non mi piazzi Lo so, è una cosa momentanea, sto aspettando, arriverà domani l'altro MC60, lo so, non piace neanche a me, però una rottura di palle, stare attaccando, questo è un altro 430, non ha manco filtro AM, quindi, però funziona e ogni tanto lo faccio andare, dai. Sì, claro, scusa, sono andato a buttare roba alla mondezza. Vabbè, se hai problemi di microfono, è un altro conto. Non sono abituato a sentirti così male, non mi biazzi, non stai facendo male, però non mi biazzi, non è la tua tipica, capito? Mi sono arrivato adesso qua a casa, mommo. E non so che non la metti in questo è un altro tipo di microfono, quindi... non so che dirti, anzi adesso cambio così, ti dimostro che hai pienamente ragione, aspetta che commuto. Eccomi qua, stavo sbagliando commutazione, questo è l'MC60. Cambia la musica, a voi se cambia, è chiara, chiara, forte, bella, proprio una telefonata. Lo so, da quello ne ho ordinato un altro, il 60, dovrebbe arrivare domani, perché è partito venerdì mattina, quindi dovrebbe arrivare domani. Lo sai, io sono amante del 60, però purtroppo c'è questa radio e gli ho dovuto adattare un microfono giusto per farla andare ogni tanto, se no si farà il rumo, capito? Perché ha una bellissima ricezione, funziona molto molto bene. KK, va bene, dai, quindi ti ho convinto, questa è la radio che devo usare, basta, 60 e 60, ormai siete abituati. Sì, Cla, è brutta, non mi piace, non ti si addice, ecco, diciamola tutta. No, ma infatti l'ho visto che non... Sì, è chiara, va bene, non è che, però no, la timbrica è un'altra cosa. Quando moduli col 60 si sente. Ma infatti questa qua rimane un po' rimbombante, un po' chiusa come radio. Cioè, questa qua che sta da adesso è chiara, chiara, bella. La tua solita. 90 anni ti conosco io, sempre quella, così bella. Devo sapere un po' di roba, no, porto un lavaggio di roba, tanto detto non l'ho asciutta, poi c'è ancora la giornata bella, magliette, pantaloni, anche io mi chiamo Bugna Santa lì, bravo. Poi ci mi do poco i pantaloni, là. Ci praticamente subito. Allora, ne ho approfittato, mi sono fatto un po' di lavaggi, tra jeans, magliette, tutto. Ma sei a casa di tua madre adesso? Faccio la cucina al microfono. Ma quello che c'è da Marina c'è bene a me, non è che me l'abito sai, non lo sai, che sono come sono rincoglionito, ma sono accorto la segnale, capito, sei un po' più alto, non sai, però un po' sei più alto. La radio già è buona anche quella là, non è che cambia molto. Ecco l'aria, aspetta. Ti saluto che sta arrivando l'aria per andare a mangiare, ok? Se ci sei sentiamo dopo, ciao. Ehi, vai tranquillo, ciao Claudio, ciao. Che ce la fate? È bello, è bello. Aspettando. Cosa sei uscito con quel Luca, l'amico, là? Aspetta, stamattina, la buonanotte, la mia compagna, aspetta. Ehi, ehi. Prova, bene, sta andando, sì. A Puglia. Ehi. Perché mi sa che da cambiare la batteria al microfono. Perché non so che dura abbia la batteria a 9, io la metto dura, c'è. Aspetta un attimo, questo. Aspetta, così qua, così. Vabbè. Sant'arrangia di. Sai, come la portua va, roba, è un bel puro. No, vabbè, piove, ma non eccessivamente, dai. Non è niente di importante. Vicino. Lo dico con esattezza, debole rovescio di più, già 02, 08, cioè quanto è la 03 fa la mattina verso le 10, così 9:30, poi piove un po' da mezzogiorno in poi, 08, ma niente di importante, non è pioggia consistente. Poi martedì invece la regola fino a mezzogiorno, dopo i nubi di fuscheramento non piove, martedì non piove. Per voi, vediamo un po' cosa vi diciamo, è qua. Allora, domani 81. E martedì mi ha messo più, già anche a me, però la percentuale è 64%. Sì, ma io lo ce l'ho in dettaglio, mi ce l'ho su Sassari, non è che faccio generico, Sassari. Ah, anche io Sassari. Molto preciso questo Morcast, perché sono diverse associazioni di questi istituti che fanno le previsioni meteorologiche, francesi, italiane, cioè sono un po' di tutti. C'è Radio Meteorologico, Luca, ci dici cosa... Ah, scusa lui, no, vabbè, non lo sapevo. Vabbè, ne parliamo con calma, adesso non... Comunque lui di batterie, eh? Non è quello di quell'M93 che mi avevi dato tu nel 2005? Sì. Quello che ti piace va bene, usciva bene, l'avevi modificato. Ci aveva messo mi la capsula del citofono, boh, non lo so. Quella batteria da 2005 sino adesso funziona ancora, non si è mai scaricata. Cazzo. Mi sto guardando, qualcosa che mi ha mandato, roba. Allora. Questo qua tutto lo devo studiare. Allora, lui quella è soltanto una cosettina così per capire di come sono le domande. Però io ti mando. Però cazzo, te lo devo mandare via mail. Scrivimi la tua mail, Luca. Aspetta. Che sono, mi sembra, 22 o 23 lezioni, fatto da uno con le contropalle, va veramente bravo. Un radioamatore ingegnere, ma ti spiega tutto benissimo. Se c'è tempo, le lezioni durano di media 40, 30, 50 minuti, 60, diciamo sono così, inizi piano piano a partire dall'inizio, dalle cose, poi le ultime lezioni sono normative, e poi lui come finisce la prima parte, per dire, parla di, non so, di antenne, e poi tu come finisce la seconda parte, ci sono i quiz, ci sono le domande che ti fanno nel test dei radioamatori, per dire un'antenna, mezz'onda, quanto deve essere, lui prima te la spiega e poi ti fa la domanda, è veramente fatto bene, io l'ho visto in ritardo con la Rovari, però ti posso dire mi ha aiutato. Eia. Allora, se ti mando la mia email, aspetta, allora. Cioè, vediamo, possiamo la fa copiare? No. Vabbè, sto a schifo, dai. Mandamela via WhatsApp. Ma tu Messenger non ce l'hai, Lu? Sì che ce l'ho Messenger. Se no te lo mando la Messenger, perché io ce l'ho come coso, su Messenger ce l'ho mi. E tu apri direttamente, non stai a prendere te. Ma non siamo amici su Facebook, capito? Me non te la posso mandare se non siamo amici. No, però fa. Guarda che c'ho una foto con la che sono in piedi. Aspetta un attimino, guarda. Cacchio Luca, ce ne sono 2000 di foto tue, cacchio. L'ha trovata su WhatsApp, ho quella immagine lì. Cacchio, ce ne sei uno con gli occhiali da sole, un altro che sei a maniche corte blu con la maglietta blu, uno che sei a petto nudo, un altro che sei in primo piano la faccia, e quanti ne hai di profili tu Luca? A petto nudo è impossibile. Come no? Cioè le mani in faccia e si vede una faccia. No, è impossibile a petto nudo roba. Io l'ho mandato a quello che c'è, il cappellino e una maglia, un giubbotto nero, non lo so, e con gli occhiali scuri, tu sei. Ma ti ho mandato la foto su WhatsApp, controlla, lì me lo devi mandare. Guarda se ti è arrivato. Sì. Prova a aprirlo un attimino. Allora, sono 22 lezioni, questa è la Bibbia del... De, cioè, se ti fai queste, tu sei promosso al 100%. Ho capito, scusa. Se c'è il tempo di fare questo, poi te ne fai uno al giorno di lezione così, e poi ogni tanto ti fai i quiz, perché qua ci sono anche i quiz. Inizia per dire, qua partono, sono 22 le lezioni, cioè 22 parte 1, parte 2, parte 3, e 20, la quarta parte sono i quiz. E di ogni cosa ti fai i quiz finali. Ti sto dicendo, è veramente fatto bene, il tipo è molto preparato e poi ti spiega tutto. Dai, lascia vedere, vediamo un po'. Allora, ecco. Ma c'è questo LZ21P1, quindi modulazione, schemi a blocco. Inizia dalla 22, guarda, adesso nel 22 fai, che, perché sono al contrario, a parte il 22 e il 21, la prima lezione è in fondo, tu fai lezione 22, dove c'è scritto 22 files. Ah, vabbè, scusa, mi hai mandato un messaggio, non amico, allora, 21 dove sarebbe? C'è la lezione 22 quarta e 3, dai, la prima che c'è. Ah, ecco qua, sì, sì. Tu segui se vuoi iniziare dalle normative, inizia da lì, sono abbastanza comprensibili perché te lo spiega bene e poi ti dice anche attenzione che se tu fai questo ti succede questo, cioè proprio una persona veramente veramente capace e molto bravo spiegando, non è, io ho seguito altri corsi, però erano un po' troppo strani, dai. Questo invece te la spiega bene perché deve essere un professore di scuola, sa spiegare questo. Sì, stavo ascoltando Roberto, allora, aspetta. Stavo ascoltando. Cioè bisogna seguire quello, giusto? Eia, se tu vuoi iniziare dalle normative, inizia da quello, metti prima lezione, poi ti prendi un pezzo di carta, se c'è qualche dubbio di qualcosa te lo scrivi, un blocchetto, e questa cosa qua me la segno perché sia che me la dimentico. Perché poi ci sono i quiz, lui fa alla fine del gruppo di lezione, dell'argomento ti fa, ci sono le risposte, per dire, può un radioamatore nella banda, non so, di 40 metri fare questo, eccetera, eccetera. E lui ti dice sì o no, oppure cosa ti dice? E tutte le devi ricordare così le domande, poi una volta che prendi la mano, lo sai come impari, un mesetto secondo me riesci a fare tutto, e ne sei un bel, e vedete che l'esame si fanno entro il 30 aprile, per cui tempo ne è un bel. Però piano Robe, però vabbè, tu me l'hai mandato lì, io lo vedo meglio, tramite computer, tramite telefono, lo apro tramite telefono, capisci? Inseriscitelo sul computer o un coso, un iPad, cose così, e te le guardi piano piano senza cose, senza fretta, come ho fatto io mi sono messo un mesetto a ripassare, perché io avevo già tutti gli appunti, avevo fatto tutto quanto, poi ti ripeto, se ti serve qualcosa già ti do io, c'ho un po' di roba, a me non le cose fondamentali, perché tutto non lo puoi sapere, però ti spiega un pochettino le cose principali. E vabbè, dai, comunque piano piano, roba, non è che ci può fare tutto un mosso, quindi si dici, oh già, yeah. Ecco qua, allora ti dico come l'ho preso, il telefono lo posso anche spegnere, ecco così, lui carica, e vabbè, non so, bisogna studiare, come ogni cosa, no? Per la patente, per qualsiasi cosa si deve studiare, piano piano, là. Vabbè, appena ho... Vabbè, tempo già ne ho, però dico, mi voglio prendere un paio di giorni per il capo di miei, così mi impegno, senza stare lì, capito, a casseggiare nelle picchetto, che se no non faccio nulla, capito, roba, devo stare al baracchino, studiare il buffo, se no non ci riuscirò mai. Sì, ma Luca, no, non sto troppo impegnato, io me lo facevo, vivo dall'officina, mangiavo, poi mettevo 20 minuti, prima normalmente mi faccio 10 minuti di pisolino, dai, mi rilasso un pochettino, mi prendevo quello e mi facevo 20 minuti così e mi leggevo le cose, poi la sera un'altra mezz'oretta, un quarto d'ora così, l'importante è che lo fai sempre, per dire, dedichi un quarto d'ora la mattina dopo pranzo, poi un quarto d'ora la sera prima di mangiare o dopo mangiare, continuamente, in modo che c'è la mente fresca. Andando ad aprile tu diventi, lo sai tutto, non ti buttare tutto in un mese a studiare e magazzinare roba, non ci riesci, se ti metti tutto a fare tutto in una volta, ti esce fumo la testa, perché così c'è troppa roba, ma invece così piano piano ripassi, ogni tanto ti fai qualche quiz, perché su internet ce ne sono miliardi, c'è un altro sito, quello che ti ho mandato, che tra l'altro non ho capito perché non te lo apre, di lì ci sono 1000 domande, 1050 domande, sono proprio le domande ministeriali, quelle che ti fanno loro, e ti fai prendere, ci sono gli argomenti, io quasi tutto le facevo giuste, a parte qualche cosa degli schemi a blocchi, quelle cose lì, che quelle sono troppo complicate, di lì me la sono tentata, io è andata bene. Hai visto, è molto studiato, quanto tempo sei stato studiando? No, ho fatto un ripasso, un mesetto giù, Luca, però ti presente passando un ripasso, io ci avevo già tutto, io quando sono andato con Fabrizio nel 2012, avevo studiato, posso dire, veramente bene tutti i giorni, impegnandomi, facendo per un po' di tempo, per un paio di mesi, ed ero pronto, purtroppo è capitato questo ballone, ho fatto una domanda strana e di lì ci ha fregato. quella che ha sbagliato Fabrizio addirittura la sapeva lui, se fossimo stati vicini, noi che non ci conoscevamo ancora, ci saremmo aiutati a vicenda. Mentre per la sessione dopo hanno promosso Cane Pucci, prima da noi hanno fatto strage, 18 bocciati su 18 presenti, mentre la successiva li avevano tutti promossi, ma gente che quando c'ero io non sapeva manco le cose elementari, ma proprio una vagogna era. Adesso le domande non erano semplici, però le sapevo e mi sono arrangiato. Beh, certo. Quando uno si mette a fare le cose già riesce, dai. Lo so, Roberto, ma giusto perché non è che mi interessi, cioè mi interessa da una parte, magari detenere magari qualche radio in più. Io volevo prendermi una radio tipo la tua, così, però senza non mi fido. Sì, anche per quello, fondamentale è quello lì, ma poi anche Luca, per soddisfazione personale, perché ti dico, tu non sei un ragazzo stupido, sei un ragazzo intelligente, ti appassioni, tutto quanto. Ci sono certe persone che l'hanno presa, mamma mia, che ti ripeto, uno che c'era quando c'ero io, che non sapeva le cose elementari, le cose che proprio che devi sapere, si parla in radio, le sanno tutti, questo non sapeva, e ha fatto a me, ma tu che cosa dico? Io me lo guardo e ho detto, ma come, non sai, come dire, quanto fa 3+3, una domanda del genere, io sono la Zabbi. Purtroppo così. Finché, come, non dico che sia uguale alla patente della macchina, però sai che in ti faccio un esempio, in un incrocio per dire, oppure in un cartello, ti fa mille domande. Ma Luca, la patente della macchina, forse vabbè perché io sono nel campo, era una passeggiata per me. Così la patente nautica, quando sono andato, la sai quante ne bocciano, tu non hai idea, al minimo 60% li bocciano della patente nautica. E quando sono andato io mi sono presentato da solo, il 23 di dicembre del 93, non si è presentato nessuno, lo si sono assultati, non lo so. A me mi potevi chiedere qualunque, però l'argomento nautico è quello lì, sai tutto e non è vasto, il problema è l'elettronica, è troppo vasto come argomento. E poi te le impostano le domande in un modo che se tu non sai la logica di quell'argomento, cazzo, ti metti ti impalli, perché a me mi ha fatto una domanda per dire, sul transistor e mi fa che configurazione dei transistor utilizzerebbe lei per avere per una cosa, per avere un sistema migliore. E io gli ho detto, configurazione emettitore comune, e mi guarda così lui, come? Ha fatto, emettitore comune è quella più conveniente. No, volevo dire che tipo di transistor. Allora gli ho detto i MOSFET, perché c'hanno un rendimento, cioè tu li devi rispondere come vogliono loro, e quella la butti dura, perché così quando sono andato alla patente nautica, io sono geometra di titolo, gli hanno detto, parlando in termini tecnici giusti di geometra, gli ho detto piano ortogonale, lui mi ha guardato come per dire tu la stai dicendo, allora ha detto ah scusi aspetti, e gli ho detto in modo come lo dicono loro, in modo più elementare, quando parli di certi argomenti loro sono talmente chiusi molte volte, quando mi ha chiesto a me che tipo di emissione è, dove ci sono meno disturbi, meno tolleranza di disturbi, io ho detto prima di tutto il CW e poi la banda laterale, quando ho detto CW l'ingegnere ha fatto di testa sì giusto, lui il tipo mi ha guardato e mi fa come CW, ho fatto certo, CW ha la larghezza di banda inferiore per cui è esente da disturbi, è migliorativo rispetto alla modulazione di frequenza e alla M, e l'ingegnere gli ha fatto detto sì è giusto, lui voleva solo che si dicesse sensibile, poi se parliamo di fonia il sistema migliore è quello in banda laterale, e lui mi ha guardato come per dire ma la sua dice, nella domanda la risposta era giusta. Certo vabbè, allora AM è frequenza modulata, invece FM è frequenza modulata, giusto? Sì, quello lì. Però tu se parli di AM, poi ti chiedono che cosa è costituita l'AM, c'è una cosa, un segnale in cosa, ma sapete, poi ci sono due portanti soppresse, bande laterali, che potenza hanno rispetto alla portante principale, cioè devi dire come quella inferiore, banda laterale superiore e inferiore, a quanto corrisponde, che potenza è, ti fanno tutte queste domande qua, quanto è la tolleranza di frequenza, quanto è la banda che occupa, ci sono talmente tanti argomenti, e poi ti fammi vedere uno schema blu di un ricevitore in AM, gli devi dire tutto, fammi vedere lo schema blocchi di un trasmettitore in AM, poi in SSB, in CW, in FM, ci sono talmente tante cose, poi non parliamo di antenne, diciamo era il mio punto forte perché le antenne sono sempre stato appassionato, ma poi se ti iniziano a parlare di transistor, cacchio, di lì cacchio, e cosa fa? Dice fammi una configurazione di transistor, spiegami come lavora e cose del genere. Cacchio, di lì è un po' complicata la questione. Ma le antenne cosa ti chiede? A me mi ha fatto domande non semplici, poi mi fa, aumentando la lunghezza di un'antenna, cosa succede alla frequenza di risonanza? Allora gli stavo spiegando, allora gli dovrei spiegare tutto qua. Poi mi ha chiesto, aspetta, non me ne metto nel manco, cosa mi ha chiesto? Aspetta, me le ho scritto le domande che mi ha fatto, non erano semplici. Allora, che tipo di configurazione transistor? Mi fa... Cos'è quel circuito, quel sistema, quel circuito che c'è all'interno di un ricevitore per limitare gli smalzi di coso, di segnale, per dare quando c'è molto QSB? E gli ho detto la GC, mi fa come la GC, che cosa è? E me lo dica, me lo spieghi. Allora, la GC ha controllo automatico di guadagno, quello non sapeva manco cos'era la GC. Comunque ti ha fatto, quante domande ti ha fatto per l'esame? Allora, per essere promosso devono essere 5 domande di tecnica, 3 domande di normative. A me me ne ha fatto 4, diciamo con 3 domande ero già promosso perché le avevo già azzeccato, me ne ha fatto una quarta, poi di normative me ne ha fatto una soltanto, non me ne ha neanche fatto perché avevo già passato l'esame, mi ha chiesto a che zona del mondo appartiene la Germania, siccome il mondo è diviso in 3 zone, 1, 2, 3, e gli ho detto la Germania appartiene alla zona 1, Europa, Medio Oriente, ex Unione Sovietica, va bene, ma ero talmente sicuro di quello, l'unico un po' di dubbio perché come me l'ha impostata la domanda, quella della frequenza risonata, sembrava che ti volesse mettere in trabocchetto. Diciamo che così magari è un po' più difficile, online, secondo me è più difficile. Sì, sicuramente è più difficile perché non c'è le domande e risposta, per dire, ci sono 3 domande, quella lì è giusta, se c'hai dubbi poi magari un po' riesci a arrangiarti, ma qua devi rispondere secco, non puoi tentennare. Dice qualcuno che aiutano, vabbè, a me io non ho avuto bisogno di aiuto, però mi hanno detto che il ministero ha detto di essere più tolleranti e dare una mano. A me quando hanno interrogato a me, capisco, un'arroganza, te l'ho raccontato cosa fa. Chi è questo qua? Sono questo qua, ci sono 7 persone, c'è un rappresentante dei radioamatori, direttore del MISE, dell'Ispettorato Territoriale, poi l'ingegnere esperto in elettrotecnica, e un rappresentante dell'Associazione Radioamatori, un rappresentante dell'esercito, in questo caso c'era un comandante della Marina Militare, 7 persone c'era. Diavolo. Eravate tutti in webcam? No, uno a uno interrogano, ti fanno vedere, dice mi faccia vedere il documento, guardiamo, sì, a posto, mi faccia vedere dove si trova, allora ho preso il computer, gli ho fatto vedere la stanza, ho detto guardi sono in cucina, tra l'altro a me... Mi hanno incontrato, come si chiama, interrogare alle 11:30, alle 10:30 mi chiama, meno male l'ho risposto perché pensavo fosse di quei numeri che ti rompono le scatole, lo stavo già rispondendo male, e mi fa, signor Farina sono dottor eccetera eccetera, gli va bene se anticipiamo l'esame? Ho detto certo che mi va bene, e dice guardi, ho detto mi dia il tempo di arrivare a casa perché sono a oh, faccia con calma, come sono arrivato mi hanno risposto e mi presenta tutta questa gente che c'era di lì dentro, e poi questo qua mi fa una domanda, come mai si sta prendendo, ma non ho detto in un modo così strafottente, come mai si sta prendendo questa patente? Fatto perché sono appassionato di telecomunicazione da ragazzino, mi piace, come mai si sente un po' in ansia? Ho fatto no, assolutamente no, è perché mi devo sentire in ansia, e allora ci possiamo bere un po' di vernaccia insieme, ho detto guardi io non ne bevo di vernaccia, la beva lei da parte mia. vabbè. Comunque ce l'hai fatta, era un tuo sogno sicuramente. Che è avanti, è una messa importante, che è avanti? Sebu. Cacchio, più di 9:35 era, quasi 9:40. Sebu qualcuno, sarà. Forse qualcuno che non riesce a uscire, avanti che vuole entrare. Da lui mi fa, faccio tutto l'esame, io ero sicuro di essere promosso. Allora poi mi fa, ci rimanga in attesa, quanto prima gli diamo la risposta. Era in webcam, dopo 10 minuti mi chiamano e mi fa signore eccetera eccetera, dice il mio cognome, gli devo fare un'osservazione a lei. Cacchio, cosa è successo? Lei ha chiamato la dottoressa, non so come si chiama, signora. Ha fatto guardi, mi scusi, io non lo sapevo che era, non l'ho sentito che era dottoressa, l'ha fatto per 2 volte, noi l'abbiamo ripetuto che era la dottoressa. Ha fatto guardi, se l'avessi saputo come ho chiamato al dottore eccetera eccetera, avrei chiamato a lei, ci mancherebbe. No, perché i titoli alle persone bisogna darglieli eccetera eccetera, ma riposo bene amico mio, te perché non hai detto che sei geometra, mi chiami geometra, questa gente che fa questi discorsi, beh certo, e vabbè, roba, passi in più o male fatto, cioè è qualcosa, molto devi aspettare per avere il, come si chiama, il nominativo. Allora, da marzo 2021 è cambiato tutto, perché prima loro ti mandano la patente, anzi ti arriva proprio a posta, adesso te la mandano online. Però da marzo 2021, cioè non, l'ho letto l'altro giorno, c'è una variazione, perché tu dovevi fare poi la richiesta per il nominativo e per l'autorizzazione, dovevi farla a Roma, al Ministero, eccetera, eccetera. Dice che adesso arriva tutto tramite ispettorato, per cui a uno gli è già arrivato in Lombardia, non so dove, dopo due giorni gli è arrivato tutto. Ma anche la foto ha voluto, con tanto di foto? Allora, la foto ce l'avevano già, perché dall'altra volta, però per come ho capito la foto non è più necessaria, non ne fanno più con la foto. Con un foglio da con nominativo, così. E tu una volta che hai quello puoi trasmettere nelle altre frequenze, giusto? Ti danno il nominativo e l'autorizzazione generale, è come che tu c'hai il libretto della macchina, tu c'hai la patente per guidare, ti danno la targa, però se non hai il libretto non puoi circolare, è tutta una catena. Ho capito. Vabbè, comunque una volta che ti arriva tutto puoi già andare a fare le prove, giusto? Sì, operativo da quel momento lì. Adesso vediamo come nominativo. IS è vero, è sicuro. Poi bisogna vedere, ci sono tre lettere, perché IS è vero è il prefisso della I, Italia, IS è vero della Sardegna. Sì, capito. E Robert, ma non ti fai anche lì un paio di giri, dai, non sai cosa fare, poi... Vabbè, tanto sicuramente un po' di pratica te l'hai fatta in ascolto. Sì. Quello dei punti non l'ho mai fatto, no? Le VL1 le ho mai provate, vabbè, non ho mai provato neanche le bande HF, però già si può fare. Insomma, io dobbiamo organizzare l'antenna del dipolo con Claudio, ce l'ha da parte da parecchio, dovevamo metterla, adesso appena c'ho tempo. La prima soddisfazione è fare un collegamento in banda amatoriale, diciamo, in HF. Piano piano, Robe, poi ti appassioni. E va bene, ripeto, io come ti ho detto, se riuscivo a prenderla per la detenzione, ecco. Se AC10 Luca, ti ho detto, c'è tanta gente in gamba che ti può aiutare, per quel piccolo che ti posso dare io, almeno a livello di documentazioni e cose del genere, già ti do qualcosa io, e sono molto dettagliate, cose molto specifiche, ho fatto una specie di riassunto, sono una trentina di pagine, e ci sono spiegate le cose importanti in modo che riesci a memorizzare la logica. Poi se segui le lezioni di quel tipo, posso dire Luca, è veramente bravo, a parte che è simpatico, è una persona proprio a modo, non è. Se tu entri su internet, se vai su YouTube c'è una marea di questi insegnanti, ma sono tutti professorini, come dice qualcuno, però non hanno cosa, come si chiama, per insegnare, io te lo dico perché lo faccio per altre cose l'insegnamento, e ci vuole anche comunicazione, saper dialogare, cioè spiegare le cose, no, come dire, si fa per forza così e lo devi fare così, no, questo te lo spiega e ti dice attenzione, se fai questo rischi qui, invece no, tu devi fare così perché se no, mentre questo te lo dice in un modo diverso, è molto più amichevole, dai, quando ti dice, e poi te lo spiega benissimo, ti fa degli esempi proprio semplicissimi quando parla di propagazione, di, per dire, come mai tu, per dire, in certe bande ti ascoltano a 1000 km, a 30 km non ti ascolta, ti spiega dello skip, la propagazione, eccetera, eccetera, proprio facilissimo e ti aiuta tantissimo. Poi ci sono le cose naturalmente che devi memorizzare. Codice Cugli, linea di massima, già è semplice, le normative più o meno si sanno, qualche cosa, a me magari devi stare attento su certe cose delle normative, perché ci sono domande un po' così ambigue che devi stare attento, però non c'è da sbagliare, diciamo, una volta che te le studi le sai. Beh certo, come ogni cosa, per tutte le cose bisogna studiare, inutile, così. E vabbè, adesso, vabbè, ora come ora no. Però ci proverò male più avanti. Ma Luca, senza impegno tu lo puoi fare leggendo, così dici, anziché leggermi giornale del testo, un biglioghito, esci 10 minuti nel sottofondo, io me lo avevo sdraiato nel letto, accendevo e lo sentivo parlare questo qua, proprio tipo una discussione, quando ti ascolti una musica, un coso letto, lo metti sotto piano piano, così quando c'hai dei tempi liberi, ma senza impegno, se per dire oggi non hai voglia a mezzogiorno, esci che me lo faccio alle 5, alle 6, l'importante è che tieni sempre una cosa, un filo continua, perché se te lo fai adesso e ti metti a studiare per un mese e poi abbandoni, ti dimentichi tutto. Me te lo sto dicendo, è così. Io molte di quelle cose che avevo studiato, vabbè, le ho studiate tanti anni fa, proprio dimenticate, vero assoluto. Mi venivano i dubbi su cose elementari che adesso, se me lo dici, te ne dico gussia, perché poi ti chiedono anche collegamenti in serie, in parallelo, trasformatori, induttanze, cacchio, non c'è, poi vabbè, tutte le formule, ce ne sono centinaia di formule, però basta che ne sai qualcuna, poi già ti arrangi. Ehi, ehi, ehi.